ricordati, ragazzo mio, ricordati. L'amore è un gioco semplice, facile, ma non sembra in me. Tu sogni ancora, tu tremi ancora, ma sai l'amore cos'è? Ricordati, ragazzo mio, ricordati, che le parole baciami, stringimi, fanno poi soffrire. Non credere, non piangere. Sorridi al tuo destino. Ragazzo mio, ricordati, che le parole baciami, stringimi, fanno poi soffrire. Non credere, non piangere.